是槽音。 N N Naso Naso Nave Nave Neve Neve Noce Noce 练习 Nano Nano Netto Netto Nome Nome Nido Nido Nulla Nulla Nono Nono India India Quanto Quanto Quando Quando Domanda Domanda Tenda Tenda Intero Intero Antico Antico Anche Anche Onda Onda Infame Infame Incontro Incontro Ancora Ancora Invano Invano Angelo Angelo Entrata Entrata Ente Ente Ninna canta una ninna nanna. Quello è il dono della nonna. Non c'è niente di nuovo. 谚语 Proverbi. Quando si ha fame, il pane sa di carne. A cavallo donato non si guarda in bocca.